proprio a Roma. Che? Vabbè, karaoke abbiamo detto, ciao. Cosa? Ho detto karaoke abbiamo. Aspetta, aspetta. Abbiamo il karaoke, ciao Cla. Il karaoke dove? Sul 10, oggi cioè, sei andato a karaoke, non lo sapevi? No, perché? Chi c'è che sta facendo karaoke? Gianni. Ma Gianni chi? Faccio il volume, non hai sentito? No, negativo. Ho levato il volume adesso. Stava cantando la sua canzone, Gianni, Gianni, Gianni sosteneva. Buonasera, siccome non ho sentito nessuno, allora mi sono dedicata a cantare. Comunque c'è un avvenire davanti, eh. Ciao tanti, buonasera, ciao Claudio. Ciao già, ma cos'è Gianna? Quindi lui per non dire Gianna ha detto Gianni, capito? Non va bene. Io l'ho cantata come doveva essere cantata. L'ho trovato su internet un karaoke favoloso degli anni 80, dove c'erano le canzoni che dava preferite. Siccome non c'era nessuno, di solito c'è sempre il correva, allora per fare un po' di così ho acceso il karaoke, e poi sentono la musica e entrano, e così è stato. Se ti dico la verità, io stavo ascoltando nel canale 23 col DAC, perché c'è un DAC acceso e stavo mutato l'antenna e stavo ascoltando lì, e quindi qua non passa il segnale, capito? Quindi vedevo lo smitter a zero. Adesso poi ho ricomutato qua sul 440 e ho visto che c'era la portante di Franco. Vabbè, fra, terminata la battaglia. Diciamo che è da tarare qualcosa, però è fatta, già funziona. Sì, sì, il tarare lo sta spiegando, ma tu pensi che dovrei abbassarla da qualche millimetro? L'ho accorciata di un centimetro, ha migliorato tantissimo, però ancora non sono a centro banda. No, ma a frequentemente la devi tarare, come si fa a popolare la mano. No, esagerata, perché poi va bene che ti sale il corpo. No, ma non la sto tagliando, intanto faccio solo la curva come il dipò, no? Faccio la curva e la piego verso il basso di nuovo, tanto quello che funziona è l'estremità. Ho capito. Andiamo, Claudio. Adesso riusci, già va bene. 1 e 2 sono più che ottime le stazionali. Già va bene. Non può pesare. Lui è orrori. Che gioia. Tu sei poi addormito. Io? No, ero sdraiato un divano poco fa, guardandomi il Grande Fratello. Che ce l'ho in diretta io con Mediaset Premium, capito? Che mamma mia, mamma mia. Che è questo? Non ci vedo senza occhiali. No, io invece, beato te, io stavo raccogliendo olive fino adesso, fino a poco fa. Poi c'era l'olio buono. Fate, non era neanche per me, era sabato per mio suocero, oggi per mio padre. Sì, e qualche bottiglia d'olio non l'ha mangiato. Almeno per l'insalata, dai. Poi, per chiudere in bellezza, mio figlio, gli ho passato il cavo USCA della fibra, il cavo Ethernet da una stanza all'altra, quindi gli ho fatto due buchi con le punte da 60, me lo fallisco pure il pilastro. L'ho fatto anche io a casa. Di poco, sono andato a finire dietro il mobiletto, quello della centralina del riscaldamento, quindi l'ho dovuto staccare che è in legno, ed ero proprio dietro la montante del... Quindi l'ho scalzato appena appena l'intonaco e l'ho fatto uscire a fianco al mobiletto, là, all'interno, dato non si vede niente. No, io invece siccome ho il tocco di legno, non l'imbattiscopa, praticamente sono andata sotto il battiscopa, e l'ho fatto passare all'interno del battiscopa. No, questo proprio da una stanza all'altra, ci ho le scatole di derivazione dell'antenna, del coso, della televisione, e ho bucato proprio dentro la scatola, ho aperto e ho fatto il foro, direttamente dentro diciamo il mobiletto dove c'è la centralina del riscaldamento, la rattrelliera, dai. Ma no, non si vede niente, è tutto all'interno. Non è che si riscalda adesso? No, lì sono tutti i tubi, sono quei bentatini con l'isolene. Già un po' di tepore c'è dentro, si sente che il caldo c'è, ma non è un caldo da far paura. Invece io questa l'ho quando attaccato il riscaldamento, c'ho un calorifero che non mi funziona. Sarà un po' d'aria, sfurgalo. Già sfurgato, già fatto, è uscita l'aria, poi è uscita un po' di acqua sporca e poi è uscita tutto il pacco. E niente, non c'è verso. Cosa può essere? La pressione poi gliel'hai ripresinata. La pressione? Che caldaia c'hai? È tua o condominiale? No, è condominiale la caldaia, ma tutti i due funzionano in attrezzata. Solo quello della sala, che è il più grosso, che è quello che scalda di più. C'è qualcuno che vuole entrare sotto? Ciao Franco, ciao Gianni, buona serata. Riprendi Gianni? Ciao, mi sentito, buonasera. In compagnia di Franco e di Claudio. Anche Claudio, ciao Claudio. No, non l'avevo sentito Claudio. Ok. Riprendi Claudio? Sì, un secondo solo che sono... Sto messaggiando con un collega. Riprendi Giulio, ciao, buonasera. Ok, gli vado a muovere, sì, mandaci pensare, non le guardo più, guarda, non guardo più, anzi, forse faccio anche di diretta, così almeno non pago nemmeno più la tassa per vedere il partito. Vabbè, comunque lasciamo perdere, che è meglio, se non mi arrabbio. Avanti Franco, buonasera, 9:10 e anche oltre, stai arrivando, molto bene. Evidentemente hai messo l'antenna sul tetto. No, negativo, l'avevo solo un po' allontanata un po' dal muro, prima era attaccata a un pezzo di ferro, praticamente che era in asse al mio stenditoio, dai. Adesso ho fatto una prolunga, l'ho spostato un po' più avanti, l'unico problema che ho adesso sono le pompe di calore, che quando le attaccano un po' mi ammazzano praticamente. Comunque, ciao, riprendi, buonasera. Ok, state attenti al 9:12, per cui sta andando molto molto bene. Sì, per certo, più aria nell'aria con l'antenna è meglio i volumi. Pensa che lo stesso segnale che in questo momento c'è la Gianni, adesso io non so cosa stia usando, però ha lo stesso segnale Gianni, uguale identico, perfetto. Riprendi Gianni? Io sto usando un Galaxy con la Mantova. No, io sono al massimo, aspetta che abbasso, dai. E al massimo cosa intendi per il massimo, Franco? Sono circa 50, modulati anche di più. Beh, allora diverso il discorso. Ma comunque il segnale è molto buono, 9:12. L'altro giorno mi stava arrivando 9:5 circa, adesso oggi è 9:12, per cui va più che bene, molto molto bene. Mi prendi già? Adesso sono io circa 50, va bene, dove va? Ehi, adesso già sei quasi 9:20, adesso sei su, è il tuo segnale, insomma, ecco, mi prendi? Devi ricordare tu che ho preso tre radiali con vento e quei disturbi si mettevano su tutto il radiale, tutti pieni i radiali, disturbi. Poi sono andato verso Platamona, la cosa facevano dei nuvoloni da migliaia di studi, guarda, una cosa allucinante che si incrociavano, facevano delle danze particolari, una nell'aria, una cosa, uno spettacolo, sembrava proprio. Ok già, beh, lo so, quando si mettono le volatili sull'antenna, si sa, è rischioso, prima o poi si ributta giù i radiali. Vabbè, io ormai quel problema non ce l'ho più, perché non avevo radiali, per cui va bene così. Se prendi fra. Sì, aspetta che controllo un po' le stazionarie, ma sembra che non le dia. Se lo riesco a contare benissimo, con un paio di giratini a corda subito. Così sono quelli dell'apparato, ma vedi un po'. 9:5, così, 9:5, spaccati. Sì, quindi è rimasto uguale, dai, non è cambiato niente. No, è ancora davanti alla finestra l'antenna, capito? Ok, no, ma va bene, dai, il segnale è buono, la radio radio, poi dove parliamo, la radio è Radio Monte Carlo, per cui meglio di così. Vabbè, Claudio sarà ancora a telefono, già quando avrà finito già lo sa che deve entrare, non c'è bisogno di richiamarlo. Che tu dici, Gianni? Poi non lo sa che mi sta facendo una mandronia, dopo uscite e sto bene al calduccio, non mi viene voglia di muovermi. Ci devo andare a mettere il vestito del telefono, perché la prima mi è caduto, mi è messo spaccato quel vestito di protezione, quello che mettono i cinesi, però devo andare a rimetterlo, ma non è più gara. Ok, lo farei domani, lo farei dopo domani, non ci sarà tutta questa necessità di farlo subito. Cose che succedono, purtroppo succedono. Tu pensa che a mia figlia l'altra volta gli era caduta dentro da bambino un telefonino che costava un sacco di soldi e l'ha dovuta buttare perché si è bruciata la scheda madre e ci voleva una banca di soldi per aggiustarlo. E allora dice, per spendere, tanto male me lo ricopro l'uomo. E così ha fatto. Se prendi fra. Mimì, qualcuno c'è della pompa di calore? Sento già le scariche. Purtroppo succede. Una figlioccia che ho, guarda, un paio d'ore ce l'aveva, gli è caduto dentro il gabinetto. Figurati, ancora peggio. Sì, perché uno se lo mette nella tasca dei pantaloni dietro, ma a finire che come si abbassa i pantaloni si cade dentro. Va bene, dai, no, mia figlia ce l'aveva in una tazzina, è andata alla base del mare, come si è abbassata gli è caduto sulla della bambino, che il bambino sfortunatamente era pieno, c'era il tappo e dunque era pieno il bambino. Magari se fosse stato aperto l'acqua non ci sarebbe stata in maniera abbondante e non sarebbe successo niente. Comunque, 350 euro mi sarebbe pagato una cosa del genere, buttati perché poi ne volevano 120-130 per la riparazione. E ho detto no, non lo riparo più, andate se ne avete comprato un altro. Ripeti già. Anche a mio figlio ammazza, è caduto nel gabinetto, però ha già tirato la catena. È caduto in altrimenti per toccarsi la squillata, la tappetta, mentre stava facendo la catena e è caduto giù. Ha preso, l'avevo visto su internet, là, ho messo il viso. E praticamente il telefono non funziona. È una cosa strana, c'è che il viso attira tutta l'umidità. Non so cosa dici già, anche con mia figlia così, detto lì è funzionato lo stesso, però poi a di domani non ha funzionato più, evidentemente poi è stato a quello che ha detto il riparatore di telefoni, dice, perché dice una volta che prende umidità non lo devi utilizzare, lo devi solo spegnere e basta, perché finisce che fa un cortocircuito, non sa che cosa, e ti rovina la schiena madre, e così è stato, vabbè, pazienza. Cose che succedono, così almeno si muove l'economia, vero fra? Cappa, sì, addirittura se è possibile bisogna rimuovere la batteria giù. Sì, infatti è così che ha detto quello che le ripara, che è quello che c'è lì di fronte al civico, angolo via Duomo, lì l'hanno portato lì. E poi dopo l'indomani gli ha fatto preventivo, perché ha detto me lo lasci così io controllo che cosa c'è e poi ti faccio preventivo. Ha fatto preventivo, ha detto no, non è possibile. Anzi lui stesso sinceramente è stato anche onesto, ha detto non vada, non lo vale più la pena a ripararlo, perché so che costa un sacco di soldi, però tutto sommato vai, te lo ricopri l'uovo e fai prima. E così è stato. Te ne prendi già. Ma meno liscio che altro. Poi il telefono, diciamo che oramai mi ha fatto un mezzo essenziale, non c'è una persona che non ce l'ha, anche il più poveraccio c'è anche il pugno in mano. Troppo è diventato uno strumento di vita, proprio di vita, perché guai se non ce l'hai. E cazzo il telefono a casa, ritorno indietro, il telefono a casa, di cazzo, via, di nuovo ritorno indietro, non è che lo lascio. Certo, tu pensa che quello tra l'altro era il telefonino che usava il lavoro, per cui c'erano dei dati importanti da aggiungere, e dice vuol dire pazienza, vuol dire rifarò. Fortunatamente esattamente se le ricordava a memoria, se l'avrebbe per perso anche parte del lavoro già eseguito. E così succedono queste cose, già, pazienza, le prende fra. È proprio così, ormai gira tutto intorno al telefono. Ormai comunichiamo al telefono, telefoniamo, ormai è indispensabile. Sì, per certo, oggi la vita moderna è basata sulla tecnica, per cui che lo sappiamo benissimo che oggi funziona tutto in maniera tecnica, soprattutto online. Avanti già. È la tecnologia, poi avanza sempre, i telefoni in cambio, ci sono sempre quelli migliori, quelli che fanno le fotografie migliori, stai sempre già bene del telefono. Io ho cambiato dopo tanti anni che ce l'ho dopo, perché? Perché ho cambiato la batteria, io c'avevo l'SS3, ho cambiato la batteria, e ha durato per un po' di tempo e poi di nuovo non mi durava manco un giorno. Ho deciso di cambiarmelo e mi sono preso Huawei P10. Ecco, quello lì è un bel telefono, fa delle belle foto, non c'è bisogno manco di macchina fotografica, fa delle foto eccezionali. E in più, niente, l'unica fregatura che ho preso è che il giorno dopo è entrato, c'era l'offerta, nello stesso posto dove l'ho comprato, non mi hanno avvisato. Io l'ho comprato la sera, di domani costava 100 euro in meno. E sei andato a ringraziarli, sì? Ma è una storia quella lì, perché quando io viene qualche due a comprare l'acqua, roba del genere, che di domani è l'offerta, se ne sta lì già 4-5 casse d'acqua finiti nel carretto. E aspetta domani, cosa me ne serve di acqua questa sera? Se ne prenda 3 bottiglie, domani va in offerta e se la prende domani, che costa di meno. E loro mi ringraziano, ho capito, cioè io lo faccio sempre. Invece com'è? Questa strofa non ha detto niente e me l'ha fatto comprare, mi telefona Marco, papà, ma la sera una cosa, sono da coso, da un euro, e il telefono che tu hai preso insieme a me ieri sera costa 100 euro in meno. Ah, non mi ha detto, preparati a mangiarti le dita, prima mi ha detto. Beh, una bastardata, anche perché il negozio non è neanche il tuo, quindi che interesse c'hai? Ma è fatto, non mi costa far nulla, loro lo sanno che domani c'è l'offerta, e aspetti a domani, che domani è l'offerta, questo prezzo costa 100 euro in meno. Cosa mi costava? Dicevo, veramente, uno lo fa, che gli do una cappata, Sì, molti lo fanno, anche Carpool mi ricordo, no? Quando avevano messo l'S3 Neo o l'S4 Mini in offerta, prendevano l'anticipo e poi quando arrivava ti chiamavano o ti dicevano facci tra qualche giorno e tu lo ritiravi. Ma lì c'era già, perché ci abbiamo comprato io e mio figlio, tutti e due insieme, capito? Io l'ho preso nero e lui l'ha preso bianco, uguali lì. Quindi 202 lo avete perso? Esatto. Maledetti, ci usciva un altro telefono, ci usciva. Compro le bocche, siamo in ciò che cazzate un po'. Ma in una situazione del genere, anni fa mi sono trovato anch'io, Gianni, quando dovevo acquistare la stufa a pelle, quando avevo deciso di cambiare il sistema di riscaldamento qua. Ma io sto parlando già di circa 10 anni fa, E sono andato a comprare una stufa, premesso che io ho comprato quella idro, no? E costava 3.000 euro, costava. Fortunatamente c'era una persona che io conosco, che era commesso lì, adesso non c'è più, che poi tra l'altro faceva, prima ancora lui faceva il mio stesso mestiere, però poi è entrato lì commesso, è entrato da Bricco di Città Mercato, no? E mi fa, no giù, aspetta un attimino, se non hai tutta questa grandissima fretta e questa necessità di comprarla subito la stufa, dovresti aspettare una quindicina di giorni, perché? Perché dice ci sarà uno sconto fortissimo, ma davvero, ma se mi stai dicendo così posso anche aspettare 15 giorni, che poi sono passati anche di meno di 15 giorni. Beh, ti dirò Gianni, che ho risparmiato 600 euro da 3.000 euro che costava, l'ho pagata 2.400. Fortunatamente, ripeto, c'era questo amico che mi ha consigliato così, magari è andato contro l'azienda, che però non me ne frega niente di quello che ho fatto. Mi ha fatto una grande cortesia perché ho risparmiato 600 euro, Gianni. Ah, beh, vedi, quella è stata la persona in gamba. Con un amico si è comportato da amico, ecco, ma questa qua, forse guardiamelo benissimo, qui se ne stavo prendendo due, io cazzo aspetta, lo stavo comprando anche a mio figlio io. Quindi papà dice che lo compro con le due robe e l'ho preso, dopo dobbiamo aprire le due, costavano non poco, la cifra viene tutto giugno. E purtroppo succedono queste cose. Tu pensa che con quei soldi poi mi sono bastati, mi sono serviti per l'installazione, perché poi c'è voluto la modifica dell'impianto, no? Dunque idraulico, tubi per la canna fuoraria da decoso di acciaio inossidabile, eccetera. Ripeto, con quei soldi praticamente ho pagato l'installazione. Avanti, Fra. Sì, che marca l'hai messa? Ti ricordi? La tua idro? Ma sicuramente non me la ricordo, dovrei scendere giù per vedere. Palazzi, ecco, la Palazzi. È grossa, come calorie? 30.000, quant'è? Beh, mi sembra che siano 12.000, se ricordo bene. Ma ci sono tutti i radiatori, capisci? Altrimenti i radiatori, per cui problemi non ce ne sono. 12.000 mi sembra un po' pochino, io non so quanto è grande l'appartamento, bro. L'appartamento è grande, io ho 200 metri di appartamento, però ci sono le radiature. Aspetta che qua mi sembra che sto uscendo basso del radio. Confermate che sto uscendo basso del radio? No, qui arrivi benissimo. No, arrivi come è. Va bene per te, Gianni? Sì, sì. Adesso c'è un nuovo tipo di stufa. Come si chiama? Con un liquido funziona tipo che lo serve, però non mi ricordo come si chiama. Ok. Ma io la verità, diciamo che mi ero innamorato della stufa pellette un giorno che sono andato a casa di Antonio, se ricorderai, Antonio Reserva, ti faccio il nome anche. E avevo visto questa stufa e siccome gli avevo fatto dei lavori, no, Antonio, eccetera, eccetera. E sono capitato con la sua lavorando. Ho visto la stufa così, cazzo, lo sai che ma cantava in una maniera impressionante, proprio bello. Permesso che lui poi ce l'ha normalissima, anzi ha i bocchettoni che esce anche aria calda, va di una verità a lui, no? E dunque lui ce l'aveva nell'ambito questa stufa e poi aveva fatto un foro nella parete e scaldava l'altra stanza tramite l'aria calda che mandava. E me ne sono subito innamorato, ho fatto ma cazzo, quasi quasi. E come consumo gli ho detto, guarda, il consumo devo dire che è abbastanza accessibile, cioè accettabile, anzi non accessibile, accettabile. E poi appunto ho fatto un po' di caso, ho fatto ma gira me la compro. Sono andato così, mi ho parlato a casa subito, no? L'ho comprata già. E come ti ho detto ho dovuto aspettare 15 giorni dopo che avevo deciso, proprio per avere questo sconto di 600 euro. Dipende. Beh, non è poco. Quindi questa stufa che c'è a casa praticamente scalda i calori, spedisce i calori per mandare il calore, cosa va da acqua calda? Certo, ci sono il normalissimo riscaldamento tradizionale con i radiatori. Io ho tutti i radiatori in alluminio, per cui quando accendo la stufa, scusate la tosse, accidenti alle raucedine, e quando accendo la stufa mi scalda i radiatori, come un tradizionalissimo riscaldamento anche a gasolio, uguale, non cambia niente, guarda. Scalda in maniera perfetta, come prima e forse anche più di prima. Capito? Già. Oggi c'era proprio un programma su Pelle, ti stavano spiegando che cosa era, dove lo facevano. Sai che c'è del pellet che fanno con avanti di plastica, cose del genere, per evitare di conferirla dove deve essere conferita, che si spende un sacco di soldi. La mettono in mezzo al pellet in minima quantità e si brucia, capito? E fanno tutte queste cose, questo che era un comodato di carabinieri, l'unica cosa da guardare è che spezzando il pellet non appaiono delle cose colorate, tipo rosse, roba del genere, e così vuol dire che c'è anche mezzo questa moldezza che loro per questo non lo so, in questa fase qua non te lo so dire, non ti so rispondere già. Io so solo che quando vado a comprare il pellet, se trovo faggio puro, o preferisco faggio puro. E ho un limite 50-50, 50 bette e 50 di faggio, o quantomeno di coso, di legno duro, 50-50. Io di solito prendo quello e guardo soprattutto intanto il coso, il residuo fisso che deve essere basso, se no ti sporca troppo la stufa. E soprattutto le calorie per metro quadrato. Io prendo sempre quello 5,2, che fino ad oggi è quello che ho trovato di più come potere calorifero, 5,2. Tieni presente che ci sono certi pellet che sono 4,5, per cui io compro sempre quello 5,2, anche se magari alle volte costa un tantino di più dell'altro tipo di pellet. Tutto lì già. Avanti, Fra. No, c'è un bel di mondetta in giro, bisogna stare attenti perché poi alla fine ti intasano la canna fumaria e ti storcano il braciere e poi ti può andare in blocco la stufa. Specialmente le sedie plastiche in mezzo, guai, oppure quelli di abete dove c'è molta resina, vanno tutta roba che va a intasare la stufa, capito già? Lo so, io vabbè, non ho problemi perché c'è un riscaldamento a gasurio, quello con l'economia. Che si è comprato con la vitro, come cavolo si chiama, quindi adesso non mi ricordo, e scalda tantissimo, l'ha pagata una cazzata a 130 euro da piccola, e guarda, scalda in una maniera anche eccessiva. Con la zeta, Zibro. Ah, Zibro, vabbè, Zibro. Vabbè, comunque è una cosa nuova per me perché non l'avevo mai sentita. No, c'è tantissimi anni. È che sei schiavo, diciamo, dei bidoni, devi stare con questo liquido a riempire la stufa. I serbatoi sono piccolini, contengono qualche litro, 2-3 litri. Non so, ma c'è, me l'ha fatto vedere, c'è la pompa tipo quello per tirare il bidone. La metti nel bidone da 18 litri che costa 35 euro, un bidone da 18 litri. Consumo, ho detto che non consuma tanto, e ti riscalda tantissimo la stanza, perché con già l'impianto, con la caldaia, il gas, eccetera, eccetera, c'è una cosa, consuma troppo. Ma io sono col gas di città, tra acqua calda, riscaldamento diciamo il gas della cucina, sono attorno alle 100 euro al mese di media. Cosa sei? Tu chi sei? Gas di città, Medea. Con Medea, no, perché ce ne sono diversi che installano il bomboloni, eccetera, eccetera. 100 euro, poco non lo so, se a conti fatti bisognerebbe fare un conto con la luce, scaldabagno, cosa, ma bisogna cambiare tutto anche lo scaldabagno quando funziona così a gas, se ci vuole con la gas, no? No, io il scaldabagno l'ho eliminato, praticamente la caldaia è polivalente, produce sia acqua sanitaria per il rubinetto sia acqua per i radiatori, fa tutto uno, appena tu apri l'acqua calda ci metti in funzione la caldaia, ti dedica tutta la potenza all'acqua calda. Ma la caldaia non vuole piazzata? C'è nel terrazzino proprio fuori nel poggiolo là. Io sempre ho preso paura, dico la verità, c'ero quando è successo con l'affare di Cesare Battisti, ero esattamente in piazza Castello, ho sentito tutte queste sirene, cosa sono sceso giù, ho visto tutto l'ambaradano togliendo la gente, c'erano feriti, tutta gente che stava passando, uno per il calluccio, cioè ho visto questa cosa che mi ha talmente impressionato. Io allora ero un ragazzo, c'avevo la guerra di Piazza Castello, mi ha talmente impressionato che quando mia moglie ha detto lo mettiamo in casa di Medea, ha detto di no, mi ha detto no, ma sono tanto perché mi ricordo questa cosa qua, e tu mi direi c'è la macchina a gas e vivi così, ce l'hai sotto al sedere il gas, anche quello mi dicevano tutti, non fare di più a gas che c'è la bomba sotto al sedere, non è fare questo e quell'altro. Poi sono andato da un amico che va in casa e mi ha detto già la gente che non ce l'ha a farla così, meditano ero tranquillo, ci sono tre valvole di sicurezza che non può esplodere mai. E in più il consumo è diverso, da 350 euro mensili che spendevo, adesso spendo 120, 130. Ma io ne ho avuto 6 a gas, sempre contentissimo, specialmente quando fai il rifornitore. Sì, ero grillo. Questi 32 euro con un pieno, per una macchina mia c'è 50 litri, con 32 euro io giro una settimana. Ma io giro e vado con tutto, ma eccetera. No, no, ma io l'ultima che ho venduto è il Gran Vitara, che era 1600 iniezione con l'impianto a gas, fatto a Napoli, questo impianto l'ho fatto a Napoli con 1000 euro, un impianto di ultima generazione, che qua ce lo sognavano. Addirittura il mio impianto aveva anche il serbatoio dell'olio per lubrificare le valvole, cosa che qua forse sta iniziando adesso. Io l'ho fatto da Calvino a Pedranieri, all'impianto, e non mi ha mai dato problemi, sono turista. L'unica cosa che dà problema è il gas che vendono qua a Sassari, che è sporco, è un gas che praticamente per mettere l'olio bruciato in mezzo, e l'olio bruciato non smaltisce, quindi si attacca ai filtri, si fa una specie di catrata. Questo qui detto da uno del rifornitore, che lavora al rifornitore, che lo sa. E mi ha detto, Galvino, mettilo sempre a posto torso, perché quello è proprio un fungo e non ti fa nessun casino. Quando metto tutti ti metto questo, ti tratta a me, secondo te. Guarda quello messo a Sassari e quello messo a te, al posto torso. Scattemela, appunto, l'altro è là. Cazzo, sembrava catarale. Sì, sì, conosco anch'io quando potevo rifornire il volino, perché quella, le altre sono miscele di gas, invece quello è proprio propano puro, lo paghi qualcosa in più. Riprendi un po', Giulio, se no monopolizziamo un po'. Sì, non c'è problema, figurati. Mi piace anche ascoltare, non c'è problema, sta figurati. Sì, no, stavo dicendo, Gianni, io, allora, ogni 3 giorni, tanto per dare un'idea del consumo che fa questa stufa, io ogni 3 giorni consumo 2 sacchi di pellet. L'accensione avviene qua tutti i giorni dalle 2:30 di sera fino alle 10:30 di notte. Ogni 3 giorni, come ti ho già detto, 2 sacchi di pellet. A fine anno, cioè a fine inverno, grosso modo consumo 80 sacchi più o meno di pellet, consumo. A volte anche di meno, 80 sacchi è il massimo, a secondo dell'inverno e del freddo che fa. E praticamente per una spesa totale, grosso modo, di 400 euro per tutto l'inverno, ma di inverno anche a tempo inoltrato. Mentre invece prima con Gasulio ci voleva il doppio, Gianni. Ecco la decisione per aver cambiato il tipo di riscaldamento, qual è stata? Perché risparmio la metà di quanto spendevo prima, o Gianni. E non è poco, caspita. Vabbè, bisogna guardare queste cose, perché prima certe cose non si conoscevano, dopo una volta che le conosci, che in altre case, io guardo la tua parte, me la ricordo sempre, la casa di Franco California, io l'ho conosciuta, ma c'era un caso che io non riuscivo a resistere, mi faceva la faccia rossa, io non so come facessero a sopportare tutto quel calore. E poi c'è da dire anche questo, c'è da dire che con il gasolio sei obbligato a prendere nemmeno minimo 500 litri di colpo, così. Ad esempio, se una famiglia non ha grosse possibilità finanziarie, uno può andare col pellet e battere compra anche un sacchetto al giorno, per dire, va a fare la spesa, all'azienda alimentare prendono il pellet e puoi comprare anche un sacchetto e ti disimpegni per una giornata, per dire, no? Mentre invece col gasolio, quando tu chiamavi la macchina se non gli ordinavi almeno 500 litri di colpo, non te la portava nemmeno. E il discorso è questo, Gianni. E dunque la cifra è esorbitante, tutti insieme, tutti in una volta. Ecco qual è anche il vantaggio del pellet, riprendi. Sì, sì, no, io ho un collega, c'è anche più di uno, che hanno messo la idro già da 4 o 5 anni e sono contenti. Non è totalmente idro, mi sembra che sia tipo 60% di salire per i radiatori e 40 per l'aria, cioè aria calda, è polivalente, capito? Però dice che puoi stare in canottiera dentro casa, eh? Avanti, clà. Di poco di pesi. Io c'ho, noi abbiamo le caldaie collegate alla marea, Gianni, e non pago nulla, io pago sempre nel condominio, sempre 90 euro al mese pago io, estate e inverno, capito? Il riscaldamento mi è acceso, ci sono 23 gradi, ho aperto anche la finestra, e praticamente lo accendono dalle 4 alle 10 e mezza, rimane acceso, capito? Non aggiungo il bagagliante, io sempre 90 euro al mese pago, estate e inverno, non c'è nessun cambio qua, il riscaldamento è compreso nel condominio, tutto l'anno, capito miei? Così va bene, io ne pago 99 e non è compreso il riscaldamento, cioè è compreso perché paga qualcosa in più all'anno, qua 90 euro al mese compreso tutto, estate e inverno, riscaldamento, pulizia giardino, pulizia scale, pulizia ascensori, pulizia di tutto, sempre 90 euro al mese in bagu, tutto compreso, tutto, anche il riscaldamento, capito? Siamo collegati con la marea, prima noi avevamo le caldaie a gasolio, 4 anni fa sono state messe al gas. Non abbiamo problemi, manutenzione ogni fine inverno, in tutte le caldaie, e niente, comunque, ho sentito parlare di cifre che non sono poche, 400 euro, Giulio, se consideri da novembre, perché non puoi dire che l'hai attaccata prima la stufa, fine ottobre l'hai attaccata, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 5 mesi, 5 per 5 sono 25, quanto hai detto che spendi? Insomma, sono un sacco, anche 5 euro, mi sembra una cifra troppo elevata, comunque. Va bene, va bene, sì, ma lì a casa di Franco già ci ho vissuto anch'io parecchie volte, ci ho anche mangiato. E il problema è che loro ce l'avevano nel salone, lì il salone non era molto grande, capito? E scaldava lì, con gli anni a Buisarrati, se tu entravi dove Franco c'aveva le radio, c'era più freddo rispetto al posto dove loro stavano. C'era via Nadanati di stufa. Sì, ma io l'ho conosciuta proprio a casa di Franco, io non ne avevo mai visto, con la verità. Come sta lì a casa di Franco, ma la casa io non riuscivo a resistere qua toccando l'oceano. Ci mandava a baciare lui. E si scalda abbastanza, cioè, magari c'è qualche regolare, non so come sia, però non ho mai avuto tutti i figli. Ma io l'amica ci ha preso quella libro, scalda bene, consuma poco. Da 18 euro paghi 35 euro, c'è una pompetta tipo quella del vino, tu pompi e mi fai scendere il ciclone, poi chiudi, ti metti qui il serbatoio e via, e parte. Sì. No, io ho i termosifoni e va bene così. Avanti Giulio, riprendi. Ok, claro. No, e noi lo usiamo di più. Noi andiamo anche a metà aprile o qua, accendiamo il riscaldamento, no, tranquillo, sicché fa il conto, siamo sull'ordine di se no di 60 euro al mese, 55-60 euro al mese che ci viene, perché sono parecchi mesi, sono 7 mesi addirittura, fa il conto, novembre, anzi quest'anno addirittura alla fine di ottobre, una decina di giorni di ottobre, ma non li consideriamo, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, a metà di aprile siamo già nell'ordine di 6 mesi o qua, perché 400 diviso 6 all'incirca sono 60, sempre 424, 65 euro più o meno a mese, non mi sembra eccessivo. Sì, ma era il doppio quando ce l'avevo a, a Gasulio qua, per cui c'è un risparmio enorme. Sì, beh, così sì, così sì. E vabbè, condominio, già, smattano, quando c'era l'acqua condominiale compreso tutto, noi ci abbiamo compreso tutta la vita, su questo non, non mi posso lamentare, però il problema del, di quelle autonome c'è un costo, mio fratello ce l'ha autonome, c'è un costo molto più elevato, capito? C'è un costo più elevato. Va bene, va bene. E beh, fra, e allora? Dimmi tutto, dimmi. No, comunque, a parte, scherzi, io con 100 euro conta che c'ho tutto. Io di bolletta elettrica non pago nulla, perché non ho scaldo a bagno, è tutto lì. Quindi magari lui durante, durante l'anno Giulio spenderà anche per avere l'acqua calda, giusto giù? Sì, io ce l'ho da, da parte quello. Io solitamente la bolletta qua, quando siamo nei giorni normali, senza riscaldamento, è intorno ai 95, 100, 105 solitamente. Nel presente però che sono 200 metri quadrati di casa, è predisposta su, su piani, per cui è illuminatore dappertutto, non è che accendi e ti illumina tutto. L'illuminazione dappertutto è abbastanza alta anche come illuminazione. Sì, l'acqua calda ce l'ho dal coso, dal bagno elettrico. Non l'avrei fatto direttamente il collegamento anche dalla stufa, ma la stufa in estate non la posso accendere. Dunque non è che posso farlo, ho deciso, vabbè, l'acqua calda ce l'avrò sempre con lo scaldabagno, non se ne parla più, per cui va bene così. E poi naturalmente la bolletta nei mesi invernali aumenta di una ventina di euro in più, perché c'è la corrente del consumo della stufa, no? Perché se non c'è la corrente elettrica non funzionerebbe, Ofra. Sì, sì, no, io infatti dico, no, non spendo tantissimo, io con quei 100 euro al mese, io ho tutto, dal gas della cucina, perché tu dovrai prendere anche le bombole per la cucina, io ho tutto in quella spesa lì, e la media massima di 100 euro al mese, spalmati, dai. Poi ci sono bollette dove mi arrivano che addirittura il mese scorso mi hanno rimborsato soldi, perché sicuramente avevo pagato qualcosa in più nei mesi precedenti, però dividendo poi per tutto l'anno, l'arco termico, diciamo, mi viene sulle 100 euro al mese di media. Ok, dunque a fine anno grosso modo 1200 euro, se va bene, quello già va bene, non è un problema. Guarda, l'ultima bolletta che è arrivata qui della corrente elettrica erano 104 euro, però tiene presente che c'era anche la ratta famosa della televisione, perché ancora c'è quella ratta lì, cioè della tassa TV, per cui insieme, no? Che se no sarebbe stato anche di meno, sarebbe stato, mi sembra che questa volta c'erano 9 euro, se ricordo bene, mi ricordo di aver letto così la bolletta, sicché il consumo c'è, perché c'è, è ovvio, però non è così eccessivo, considerando poi anche la grandezza della casa, e io ad esempio la televisione qui rimane accesa dalle 9 del mattino sino alle 2 di notte tante volte, e più di una volta qui televisioni ne rimangono accese 3. E rimango ad esempio la notte, tanto per fare un esempio, io mi trattengo in salone, mi trattengo e mi guardo un film, oppure se c'è una partita di calcio eccetera, fino alla tarde, fino alle ore 11, 11 e mezzo ogni notte, poi magari mi colico, ce l'ho in camera, addirittura ne ho due in camera, uno mio e uno per mia moglie, perché guardiamo i programmi diversi, non abbiamo gli stessi gusti per i programmi, e tante volte rimangono accese fino alle 2 di notte anche, tutti e due televisori, perché di solito mi addormento verso quell'ora lì, per non contare poi il televisore che ha mia figlia in camera, anche lì non mai prima di l'una la notte si addormenta, perché insomma il consumo c'è, lo sfruttiamo, perciò è chiaro, se tu lo usi la fonte elettrica è chiaro che la devi riparare, no? È normale. Ne prendi Gianni? E invece io faccio una cosa, c'è il televisore, mi sdraio nel divano, mi addormento e mi sveglio sempre alle 3 di mattina. Metti il timer. In tutto io ho 5 televisori qua collegati, 5, uno in tavernetta, per dire, uno in salone, 2, 3 nella zona notte, mia camera e uno in quella di mia figlia. Praticamente ci sono 5 televisori attivi e tutti i giorni vengono accesi, e questi. Poi ne ho uno in più sui Massata, ma quello non si accende mai, e anzi non è nemmeno collegato, anche se lo potrei accendere ugualmente, ma non ci vado mai su, e per cui quello non si... Però gli altri 5 tutti i tantissimi giorni funzionano, tutti i giorni, tutti i giorni. Riprendi qua. Va bene, il consumo energetico è costoso adesso, poi ci hanno messo questa cacchia di ratta della TV, e quindi, vabbè, però se te dico quello anch'io, c'ho la media tua più o meno, va, 110-120, oh, io ho due donne a casa, sono sempre in un piatto, la phone e tira il capo. Va bene, ok. Io se non vi rispondo sono al telefono, chi è questo? Un altro, adesso non riesco. E domani mattina lo farò un salto in ufficio, Giulio, sono un po' così. Cosa fai? Se fai un salto in ufficio? Se sta parlando di luogo, mi devo andare a vedere come funziona lì. Già la convincono, mi vedrai. No, mi hanno chiamato, c'è una disperazione totale, riescono a darsi pace, no, non rispondo più a nessuno. No, domani mattina devo andare alle 8 in ufficio perché vogliono parlare. Che rottura di balle, guarda. Adesso ti convincono, magari ti aumentano lo stipendio, ti convincono a fare altre 2 anni. No, quello no, perché la documentazione già è stata inoltrata, è tutto, capito, però qualche proposta come esterno mi vogliono fare sicuramente. Non vogliono bene, Giulio, mettono in piedi, ho paura di accendere il telefono la mattina, mi credi? L'altro giorno me l'ho lasciato spento, l'ho lasciato acceso perché mi sono coricato tardi, trovo una televisione e mi sono dimenticato di spegnere. Alle 7 meno 10 o alle 7 mi ha chiamato prima l'autospurgo, che non riuscivo a entrare nessuno per aprire il cancello, la tua l'aiuto. Poi mi ha chiamato quello del cassone dei fanghi, cioè ma come si fa, cioè allucinante, una cosa che non veniva a dire. Oggi gioco tutto lo manzano allo telefono, tutto lo manzano allo telefono, mi hanno chiamato, guarda, non ti dico, tutti, dalla Z, sono tutti in crisi, perlomeno nella mia zona, perché non se ne toglie piedi, quindi sicuramente questi sono rivolta dirigente stamattina. Mi ha chiamato, se ci vediamo domani mattina a prendere un caffè, che mi vuole parlare. Già, io sono contento di questo, perché se un'azienda come quella ti cerca e se i responsabili hanno un giudizio positivo nei miei confronti, a me fa solo piacere, però loro si devono mettere in testa che io ho terminato, cioè non puoi continuare a massacrarmi le vedo, capito? Io lo so che cosa vogliono, lo so già, da esterno con una proposta, magari a chiamata, con un contratto a chiamata, di seguire i lavori che stavo seguendo io, di portarli almeno a termine, perché non se ne toglie piedi, capito? Sono venuto la gira di malumore, non so quale decisione prendere, mi dispiace mollare così, allo stesso tempo non mangio più gana, cioè è una situazione, non lo so, se dovesse capitare di voi che cosa facevate, ma io non so che cosa fare. Te lo dico io che cosa devi fare, tu ti prendi la decisione che conviene di più a te, perché tanto pure alla fine medaglia non te ne danno. Ecco qua è quello il discorso, qua. Se tu non hai Puglia, non ti senti in più di rimanere lì ancora in servizio, basta, chiudi, non se ne parla più, che loro ti arrangino, tu il tuo lavoro l'hai fatto, loro ti hanno pagato e va bene così. Per cui adesso sei arrivato a questo punto che puoi avere la pensione, basta, se tu decidi decidi di non andare più, non ti fare scrupoli, appunti dimmi, perché intanto poi loro se ne fregano, non hai capito? Ecco, io la vedo così, il mondo del lavoro, guarda, che alle volte è strano, è anche crudele, per cui uno ha fatto 40 anni di lavoro, cosa deve fare? È stato tutta la vita attaccato lì, anch'io avevo la tua stessa idea, per dire, di continuare a lavorare. A me, guarda, devo essere sincero, devo ringraziare i miei che mi hanno staccato dal banco, perché se no io sarei stato ancora attaccato al banco qua. E devo dirti che non è cambiato niente, la vita che ho vissuto prima la sto vivendo adesso, tranquillamente, anzi anche meglio, perché ho più tempo, più a disposizione, faccio quello che mi pare mi piace, eccetera, eccetera. Ecco com'è qua, riprendi e fai girare, vai. Sì, ma infatti che mia moglie ha detto la stessa cosa, perché vai, se vuoi avere una scusa non ci andate, ma è il mio carattere, se avete nicchia, io ho vissuto una vita con questa azienda e mi sono trovato bene, non sempre per carità, però anche loro devono capire, non è il più grande, non è un incarico così che vai e boh. Sono sacrifici che devo continuare a fare perché insomma c'è un seguito cosa devo fare, non funziona così, però il gruppo dove quello che appunto lavoravamo tutti assieme si sta ribellando perché hanno messo uno che non ci va mai, che non è presente, loro hanno difficoltà, non riescono come risolvere, capito, non riescono ad andare avanti, quindi sicuramente, perché quelli che mi hanno chiamato stamattina sono tutti colleghi di lavoro, dove mi chiedono appunto di fare ancora, non dico per molto, ma almeno ultimare queste cose che ci sono da ultimare, di fare lo sforzo di poter continuare, di dare una mano, perché non c'è nessuno che li sta aiutando, capito? E questo mi dispiace, sono dei ragazzi veramente molto molto in gamba, molto volenterosi, hanno dato sempre il massimo e quindi lasciarli così in mezzo alla insomma, ci ho mai capito, comunque io domani mattina ci vado perché non sono abituato a queste cose, mi hanno convocato, ci vado in ufficio, vediamo cosa vogliono. A rientrare non posso più rientrare perché la documentazione è già presentata, quindi io termino il 30 di novembre, come regola, dovrei lavorare altri 8 giorni, quanto ne abbiamo? Altri 8 giorni, 10 giorni, come regola. Posso anche fargli, ma io in 10 giorni non risolvo niente lì perché è stato avanzamento lavoro e ne è stato fatto poco, molto poco. Sono mancato io 20 giorni e 20 giorni hanno sviluppato il 30% del 100% che avevo lasciato da fare, quindi c'è ancora un 70% da sviluppare, da fare, da finire, da relazionare, soprattutto che la cosa che mi preoccupa di più, capito? Perché relazionare i lavori non è fare una cazzata, io ci metto giorni interi portandomelo anche a casa al lavoro, per poi presentare tutta la documentazione per far sì che la casa madre paghi le fatture del cottimo. Se non vi annoio, avanti fa. Ehi, capo, no, vai, fai quello che ti senti. Già dal fatto che c'è il magone non sei così convinto ad accettare. Poi io ti consiglierei di goderti la vita, di goderti la famiglia. Tutto qua. Riprendi, Gianni. Io a me, Giulio, mi ha dato le cose da poco, stavo più piccolo, perché se loro, guarda che rubisce la medaglia, se loro ti devono licenziare, non ci mettono più brividi, Claudio, come te li stai mettendo tu, ti si mandano in barca, quindi sarà un discorso egoistico, però cioè, secondo me tu sei arrivato, ti dici ciao, statemi bene e via. E anche tu hai ragione, già. Effettivamente è così, però sono molto orgoglioso di questa cosa, capito? Quindi sono un po' in difficoltà, ma vediamo, io la mattina ci vado, sento cosa mi dicono, perché ho già detto quello che dovevo dire al mio responsabile, che poi è sceso, domani scendo direttamente da Cagliari proprio per farci una chiacchierata, ma io non so cosa va. Non so cosa fare. La cosa che non capisco è, il proverbio dice sempre, morto un papa se ne fa un altro, perché è così, ma è mai possibile che un'azienda con 59.000 dipendenti non abbia un responsabile da mandare nella mia zona a fare quello che faccio io? A me mi pare una cosa un bel trano. Che prendi Giulio? Ok, qua, no, non fatti intenerire dei loro problemi, tu fregatene, tu il tuo lavoro l'hai fatto per 6 anni che hai lavorato, per cui chi te lo fa fare? Poi guarda che poi magari ti prendono anche perfetto, anzi addirittura ti dico a me, guardami, appena che l'azienda l'ha richiamato non gli è sembrato vero, lascia prendere qua, che nel mondo del lavoro ci sono tanti di quei vigliacchi, e io parlo degli operai stessi, dei colleghi di lavoro, per cui lascia perdere, non essere così magnanimo, godici la pensione e non si ne va a vedere più. Questo, guarda, è fuori discussione, ripeto, anch'io se fosse stato per la mia decisione io sarei stato ancora attaccato al banco. E invece i miei tutti i giorni questo battendo sempre sullo strocchiodo, ma cosa vuoi fare, ma chi te lo può fare, sai, tutta la vita lì, ma non ti basta, ma così è, voilà, quello che abbiamo ci basta, e tutte queste storie qua alla fine mi hanno convinto. Nel primo periodo, devo essere sincero, mi ho risentito tanto, anche ogni tanto quando sono così sono a pensiero, pensandoci un pochino, un piccolo dispiacere ce l'ho, però tutto sommato ormai mi sono abituato e non me la frega niente, lascia perdere, cioè, ripeto, la vita che ti hai fatto fino ad oggi te la farai anche dopo, anche meglio, per cui lascia perdere, non essere così magnanimo, a puttidini di lastre che intanto non lo prendi, non te ne danno, non ti dà nessuna medaglia, nessuno, riprendi qua. O se no fai una proposta indecente. Cioè già. Ah, guarda, gli operi di là, così almeno ti dicono l'ordine, no? Così almeno te ne scarichi la medaglia. Bella questa, già. Ma stai attento che questa non è altro che gli squattrini. Perché proprio stamattina, in battuta, poi ti ripeto, in battuta proprio il direttore generale, che un ingegnere idraulico, mi ha detto, mi chieda qualsiasi cifra, non ho problemi, basta che mi termini i lavori. Dopodiché possiamo anche farle un'altra proposta chiamata per il periodo estivo, ecco, di questo se lo scordi proprio, perché io non ne voglio più sentire il periodo estivo, non ce la farei più a gestire il periodo estivo come l'ho gestito quest'anno. 10, 12, 14 ore al giorno, tutta una tirata, non so più un piccinetto. Capito? Quindi lo sto già dicendo Gianni, che se io le dovessi dire, va bene, quanti mesi avete bisogno per poter terminare questi lavori, lo quantifichiamo, farò un sopralluogo perché mi devo accertare di quello che è stato fatto, di quello che è da fare e di quale conduzione c'è da fare per quanto riguarda la gestione degli impianti. Dopodiché io dico, ok, qua per terminare, linea più, linea meno, ci vogliono 4 mesi, 5 mesi, per 5 mesi mi dovrete dare tot. A me mi dicono, va bene, non ci sono problemi, lo sto dicendo perché è così, li conosco, perlomeno come si sono comportati con me sempre, non hanno mai battuto ciglio, capito? Perché io me ne stavo già andando tempo fa, ma mi stavo licenziando io per andare nuovamente con l'ufficio di naturalità, perché mi voleva. Mi hanno messo in busta paga immediatamente, non si muova lì, controlli la busta paga, guarda che l'abbiamo messo una tantum in più, come lo chiamano loro, e l'ho accettato e sono rimasto, capito? Tutti dicono, il proverbio è quello, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, evidentemente loro vedono in me sul lavoro, perché al di fuori del lavoro io sono un'altra persona, ma nel lavoro a me piace quel lavoro, me l'hanno insegnato, ho imparato bene, mi sono sempre comportato bene, ho sempre dato il massimo all'azienda, ho sempre detto sì, perché ho sempre detto sì, di festa, di domeniche, di quello e di quell'altro, e quindi sicuramente di questo non mi hanno tenuto conto. Pochi errori ho fatto, non li ho fatti, ho assunto le mie responsabilità, però ti ripeto, io sono convintissimo che non, problemi sono, non ce n'è, capito? capito già. Tu fai una proposta indecente, Claudio. Vedrai, già ci sarà, se tu mi chiedi un altro preso pittante, non penso che muoiono. Vabbè, comunque vado tanto, ecco, pagatemi tanto, è così che apprendete. Se voi mi state cercando in questa maniera vuol dire che il mio valore ce l'ho e quindi mi dovete fare tanto non ne ho fatto. Per me l'istante è questo, poi se volete accettare, se no io sto bene a casa. Sono al telefono, riprendete voi. Io dico che la Z doveva pensarci un po' prima, affiancarti una persona affinché appena tu una impressione lui sarebbe stato pronto a camminare con le sue gambette, dai, così deve essere. Ma sono tutti uguali, a me mi hanno messo in mano le chiavi del futuro, io stavo lavorando in negozio, mi hanno messo in mano le chiavi del futuro, quindi purtroppo se non le conosco, non le conoscevo né niente, mi mettono le chiavi in mano perché sei andato un collega di corpo, gli ha detto il periodo degli schiavi sono finiti, pure se non l'ha fatto di chiavi in terra se ne è andato, l'ho visto. Ma guarda, a me le chiavi mi ha detto, Gianni, vai e fai le consegne. E io non conoscevo né vie né niente, sono destruggiato da solo, chiedendo, facendo, guardando il tablet, facendo, sono organizzato da solo e ho fatto questi rischi. Ci vuole buona volontà, dai, già. Poi ne stavo affiancando uno, e dicevo, dove è via Sardegna? Adesso te lo faccio vedere, questa è via Sardegna, questa è via Piemonte, questa è via... Poi gli ho detto, prendi il furgone e andiamo via Sardegna, dov'è? Giuseppe, mi hai ascoltato, ma ti ho detto dov'è? Lo so, ma a me non mi interessa, questo lavoro, tu guarda. Se no se non è voglia c'è poi quella del segnale. Oggi ci sarebbe anche il navigatore, ti metti in memoria tutti i tuoi luoghi di interesse e vai, ti porta da solo. Ora c'è la cartina geografica, la cartina della città. Magari Franco, uno da affiancare a me e insegnare le vie con le zone di quel distretto. Lascia perdere. Hanno provato il 9, non mi sono riusciti, non ci sono riusciti, guarda. Io ogni mese dovevo correggere quello che facevano gli altri, sulla carta, senza la parte tecnica, perché quella è un'altra cosa, ma solo nella carta. Ui, lascia vertere. Tu chi te l'hai insegnato la tecla? È un signore che adesso non c'è più. Era quando io sono entrato, praticamente mi hanno affiancato a lui in quella zona un anno e mezzo prima che lui andasse in pensione. E in un anno e mezzo sono diventato, ma non per presunzione, più bravo di lui. Poi lui è andato in pensione e ci sentivamo spesso perché era un vecchio geometra, ci sentivamo spesso per definire alcune cose che secondo me c'erano dubbi eccetera, io quindi mi interfacciavo spesso con lui e poi niente, poi non ho più avuto necessità neanche di interfacciarmi con lui, sono andato sempre da solo per la mia strada, capito? Ed è morto due anni fa è morto a 80 anni, 79 ne avevo letto. Un tumore alla prostata, se no Dio Ciccio, io lo chiamavo Dio Ciccio, Francesco si chiama, però non voleva chiamarlo geometra, quindi lo chiamavo Dio Ciccio, capito? Bravissima persona, mi ha insegnato tanto, non solo nel lavoro, in tantissime altre cose, quindi è importante quando c'hai queste persone che ti insegnano il lavoro che hanno insegnato loro, tu impari bene, puoi vantartene, puoi dire io ho imparato perché Tizio, Caio e Semplunio mi hanno insegnato come si lavora. Io già da un anno fa avevo chiesto uno da potermi affiancare, uno l'avevano mandato, ma tu le dicevi picche e lui rispondeva a cuori, tu dicevi cuori, lui rispondeva a fiori, non aveva nessuna capacità. freghista, quindi io, come l'azienda mi ha detto come va il nuovo entrato, l'ho detto per me, lo potete mettere anche a spazzare le strade, gli impianti, perché non è valido per stare al mio fianco. E non ci hanno pensato neanche minimamente, l'hanno trasferito in un'altra zona e poi da quella zona l'hanno direttamente licenziato. No, ci vuole gente che abbia voglia di imparare, come eri tu praticamente tanti anni fa, hai visto, nel giro di pochi anni tu hai imparato tutto, ma deve essere così, riprendi già. Sì, ma gente che ha voglia, tutto un cammello, i giovani adesso si dice fare un lavoro, dicono non è compito mio, e le aziende si lamentano perché dicono che preferiscono avere dei giovani di 20 anni a lavorare piuttosto che avere 55 anni. Però non sanno che i 55 anni si adeguano a fare tutto, mentre invece i ventenni sono tarati su quello che devono fare e non spostano un pelo, fanno le cose alla cavolicare, buttano tutto così. Guarda, ci sono specialmente quelli di Sosso, non penso discriminati, però ci sono questi di Sosso che se ne prendono un bel scatto. Lo so, a volte noi siamo troppo, a volte noi siamo proprio troppo dall'altra parte, a volte facciamo cose che mai non dovremmo fare, e loro invece sono dalla parte opposta, non fanno nulla proprio. A me però se mi dicono guarda che c'è un problema di tasato, non puoi stasare, io quando lo prendo la palla e ritorno quello che c'è, dentro di gli scorre, tutto lì non ho problemi, tanto lavoro vale l'altro. Oggi per dire sai cosa stavo facendo, oggi stavo pulendo tutti i carri, perché ogni tanto faccio la pulizia, no? Tiravo fuori con la pompa eccetera eccetera, lì faccio lo scambio, metto quelli nuovi e poi tolgo da tutta la lavare. E ho fatto questo lavoro, cioè non ho fatto però, non ho fatto altro. Sì, ho capito, sono carrelli quelli gli elettrici, come si chiamano, i transpallet. No, i carrelli proprio del negozio, i carrelli della spesa. Ah, ho capito, carrelli. Sì, perché i clienti ci buttavano di tutto, capito? Poi magari trovi quello tipo un dottore, una cosa, cioè questa cosa non si può lasciare così sporca, bisogna lavarla, perché poi ti farà anche le segnalazioni. Secondo chi trovi, invece lavando, risultato periodicamente risolvi questi problemi. E poi anche per l'immagine del negozio, dai. Certo che sì. Vabbè, per dirti no, non è il mio mestiere. Ma se mi dicono lo fai già, certo che lo faccio, il problema non è un problema. Sì, ripeti qua. Vabbè, mi tira le nasce, se secondo te vanno lavati, i lavi, e così, non è il mio, è un'altra cosa. Un'altra cosa, e poi mi abbaidava, cosa incontriamo oggi? Il 30 ci sono tutte le relazioni di novembre, guarda, tutte le relazioni di novembre, capite? Da presentare entro il 5 di dicembre, e io sono assente, quindi dovrei prendere in mano la situazione, per controllare tutto, per fare tutti i calcoli dei conti, calcoli Enel, calcoli di giacenze, cisterne, serbatoi, tutte le cose, tutto il trattamento funk, tutto il trattamento del vaglio, quanti sacchi sono stati portati via, aggiornare tutti i formulari, mamma mia, ui. I formulari, il casino, anche noi abbiamo smaltito un sacco di roba qua in azienda, no? Roba, materiale tossico, inquinante, ferro, molto ferro, e quindi quando venivano a ritirare compilavamo il formulario, eh. Ma c'è uno incaricato per queste cose oppure lo potete fare tutti? No, già c'è anche qualcuno incaricato, c'è un ufficio preposto, no? Una persona, però spesso e volentieri andavamo noi li compilavamo anche fuori, perché molti siti sono fuori dall'azienda, no? Tipo Nulvi, Matis, Tempio, Pao, lì andavamo a smaltire le traversine. Sì, magari a smaltire le traversine. Ogni settimana, non lo so, che è questo, uno specchiere fatto mangime del cane, già mi hanno portato a specchiare. Ti hanno caricato due di traversine dentro quei tir, issuga. Ma se possiamo utilizzare per qualche cosa? No, ormai sono tossi che le hanno inquadrate come tossi, che addirittura veniva una ditta che poi li portava insieme in Svizzera e poi magari ci rientra sotto forma di pelle. Tossi che ho fatto in Sicilia di prima le prendevano con la catalamina, praticamente prima venivano disidratate, cioè essiccate al massimo, e poi messe a bagno nella catalamina, quindi si inzuppavano fino al midollo, però ormai non si possono più usare. Adesso queste nuove che arrivano sono trattate con della cera, delle cere naturali, però non durano più come prima le traverse, oggi durano qualche anno e poi si baciscono. Comunque la maggior parte ormai ce l'abbiamo tutta in cemento, in biblocco, in cemento precompresso. Lavori sulle linee praticamente per questi tipi di lavori come operai? Sì, abbiamo macchinari, ma anche lì se non pagano non ne uso, se non ci pagano bene ho le abilitazioni comunque per usarle, abbiamo 3 o 4 macchinari che camminano su ferrovia così. E molti camminano su ferrovia, molti addirittura tipo una specie di scavatore, si chiama il Colmar, che è scarrellabile, praticamente tutti allinei alla ferrovia, abbassi i ruotini e poi cammina come se fosse una macchina, un treno, dai, praticamente. Però è uno scavatore a tutti gli effetti. Ah, ecco. Come fai i lavori su linea comunque? Se non hanno carro, come? E prima lavoravo lui, adesso invece è il capotreno, ha cambiato settore. Infatti, no, era anche sindacalista fare, no? Sì, è stato anche sindacalista. Penso che ci sia ancora, non lo so. Sì, ero lì che ho capito. E Giulio, dove è andato Giulio, che non ricordo? Giulio, ti ho detto che... E già avviserà da quando rientrerà. Sì, sono chiamato al telefono, sono per il giorno, lo so. E io, però abitavo vicino a casa mia, sento un po'. Ma io l'ho conosciuto a Rove, un po' aveva abitato nella cantoniera lì a Badimanna, vicino a Badimanna, vicino all'agraria. Poi adesso non so dove abiti. Non lo so, però diciamo che sino a una certa età abbiamo sempre giocato insieme da ragazzini eccetera eccetera. Però vabbè, ma comunque lì lui ci ha preparato il cassetto che era un po' stazione. Ma non lo so, ti dirò che non lo so, non lo ricordo. Il fratello era capo stazione, quindi sicuramente ha fatto degli appunti per entrare. Guarda, io il concorso che ho fatto io era aperto a tutti, era pubblico. Forse il primo che non fossero figli di agenti, perché prima era una cosa a numero chiuso, tutti figli di agente, praticamente tu non entravi mai. E infatti, ma non così, anche il padre è stato brutto di agenti. Lui è lo stesso. E comunque già sta bene. Cosa fa se sta un po' freno? Cosa consiste? Praticamente fa controlleria dei biglietti a bordo dei treni e poi qualche piccola manovra può fare, tipo non so, a San Giorgio dove c'è lo scambio, lì devi muovere qualche cosa, roba elettrica, però non scambia a mano, ormai non se ne fanno più, solo qui in piazzale qualche manovra con lo scambio manuale, se no sono tutti elettrici ormai. Ciao, quindi fa lo scambio di binari e basta, ciao. Però metti un controllore, sì, fa può fare anche i biglietti, perché c'è qualcuno a volte sale senza biglietto, lui te lo fa a bordo col supplemento, però te lo può fare anche lui a bordo, se no fa controlleria, là. E in più a fianco al macchinista. E chi fa? È un conoscente di cosa, come si chiama, di Gianni, di Leonardo, ma... Non capito. No, mi ha fatto le crocchette, il sacco nuovo, l'avevo finito proprio stamattina, chiamato, non ho portato subito, che ha pagato, va bene, e fra, ma è diverso, io solo sull'impianto di Vidalba, tieni conto che faccio dai, quindi sono 3 sacchi, a volte sono 3 metri cubi di vaglio in un mese, quindi sono sacchi quelli grandi, i big bag li chiamiamo noi, quelli bianchi, quindi quelli vanno messi in carico, capito? Poi c'è il trattamento dei fanghi, quindi quando è secco, che vengono a pizzarlo, vedi il risicamento, anche quello, ti metti i cubi, anche lì prima devi prendere in carico, nel registro di carico e scarico, poi quando arriva il camion devi preparare il formulario. Per quanto riguarda il secco, poi c'è il liquido, quando aspirano dai sedimentatori, quello è un'altra cosa, il liquido, un altro trattamento, quindi preso in carico lo stesso, i millilitri, poi il formulario, lo smaltimento, l'assa verde. Così, anche noi siamo comunque quei sacchi, quei bag grandi. Plastica, soprattutto carta, guanti usati, quelli monouso, olio, quello che produce l'azienda, marmite, ferro, di tutto c'è, alluminio, pezzi di motore, rame, quello che capita, deve smistare alluminio, tutto catalogato. Almeno quello abbiamo i cassoni, l'impianto di sorso, man mano che c'è questa roba di impianti, ma noi quella roba la trattiamo, capito? Sono differenziata lì, poi arriva dal tuo centro e se lo porta via. Quello è un'altra cosa, quello se ne occupa il conduttore dell'impianto di sorso. Ma è un unico impianto, io di impianti ne ho 6, quindi sono 6 gestioni completamente diverse. Vabbè, quello del lavoro, quello bisogna fare. Poi ci sono tutte le parti dei serbatoi, dei reagenti che abbiamo, capito? Quello di elettrovita, ferrico, insomma, lascia verdere. Lascia verdere, va bene, dai, parliamo di altro. Adesso una mattina vediamo se il cacciù è questo, poi lui deciderò cosa fare. Vai già. Lunghissima. E io giù, e io e me anch'io, purtroppo mi hanno portato il sacco delle crocchette pellicane, me lo portano a casa, e adesso che ore sono? Le 7:30, io inizio a prepararmi, così mi sistemo a Filippo, stasera c'è anche gente a cena, che comprende mia figlia, e quindi ci mettiamo un po' i fornelli. Va bene, dai. Allora, momentaneamente io mi assento, sono qua comunque, e così mi preparo, riprendi giù. Ok. Adesso non ho seguito qual era l'argomento di discussione che stavate facendo, perché era il telefono che aveva abbassato anche il volume della radio qua. Riprendi tu, già, dai, illuminami. Illuminami, claro, stavo sempre parlando del lavoro, di tutte le incombenze che c'ha, eccetera. Per quanto ti lavori, bene o male c'erano le loro incombenze, anche noi ci abbiamo entrate, uscite, bolle e via dicendo, da catalogare, controllare sempre gli ordini, ogni volta che arriva la merce, per vedere se l'ordine è stato portato così, confrontare con la bolla, eccetera, eccetera. E ci sono tante cose anche da lui da fare, resi, eccetera, eccetera, ogni lavoro c'ha le sue. Poi c'è quello che magari ha più responsabilità, quello che ne ha di meno, come tutte le cose. Già, poi vado a cambiare, ti dico solo una cosa, una e boh, perché se te ne dico tante poi mi dici, alla fine dici, ma come fai a gestire 10 ore e 40, una cosa del genere. Immaginati che io ogni fine mese, la mia squadra è fatta di 8 persone, io vabbè c'ho il beige e quindi non ho problemi, sono gestito dall'azienda. Queste 8 persone fanno il rapportino giornaliero e a me mi devono scrivere, perché sono squadre diverse, in diversi posti, dove io devo girare appunto impianto per impianto, conduzione, manutenzione, eccetera, eccetera. Mensilmente, ogni fine mese, a me queste 8 persone mi danno i rapportini. Ci sono i registri di conduzione che loro firmano giornalmente. Io devo andare a prendere il rapportino di ogni singola persona. prendere registri a conduzione dal giorno 1 fino al giorno 30 e spuntare quello che ha scritto lui e quello che ho scritto io, quello che ha scritto lui e quello che ho scritto io, vedere se c'è qualche anomalia. Quando era portino tutto a posto, lo dovevo controfirmare e dare al mio responsabile, perché c'è un superiore che è un referente di zona, che poi praticamente va diretto in azienda, in un altro geometra più grande di me, e poi devo fare la giornaliera. Quando io ho completato la parte, diciamo, di fine mese, devo riprendere tutti in mano i registri di conduzione di sei impianti e relazionarmeli da solo. Relazionare cosa vuol dire? Relazionare vuol dire che dal giorno 1 al giorno 30 io devo fare tutti i calcoli della luce Enel, contatori dell'Enel, che io giornalmente, io solo, non nessuno, solo io, prendo tutte le letture giornalmente dell'attiva e della reattiva e trasformo in kilowatt e consumati giornalieri, li trasformo direttamente io, ok? Faccio le differenze giornaliere giorno per giorno. Quello, devo relazionarmi quello, devo relazionarmi tutti i reagenti giorno per giorno, i consumi in chilogrammi, i consumi dell'ipoclorito, perché io tratto solo ipoclorito, in chilogrammi e in metri cubi ora che hanno consumato, questo sempre dal giorno 1 al giorno 30, non solo per un giorno. Devo relazionare tutti praticamente i lavori che sono stati fatti impianto per impianto, ma devo relazionare tutti, ma sai cosa vuol dire montagne e montagne di carta? Che credimi, come fratello io a volte non ce la faccio, me la porto a casa quando sono a riposo, ok? Mi capita la domenica a riposo, io la domenica mattina mi metto nel salone e mi faccio le cose che non sono riuscito a fare per portare poi il lunedì tutto al lavoro e consegnare al mio responsabile. Ma è una pazzia, Gianni, credimi che è una pazzia, perché la testa poi alla fine non capisci più niente, soprattutto se non sei tranquillo, perché squilla anche il telefono e ci sono degli spostamenti da fare, quindi devi mollare. Quando ritorni, devi sapere che cosa ho scritto. Sto parlando degli impianti, poi c'ho 12 sollevamenti stradali, che anche lì ci sono le ore delle pompe, quante ore ha lavorato ogni sollevamento stradale, anche lì c'è il consumo dell'Enel, quindi relazionare per 12 sollevamenti giorno per giorno, dal giorno 1 fino al giorno 30, ogni mese. L'azienda mi dà a me 5-6 giorni di tempo per fare queste cose, 5-6 giorni di tempo. A volte li consegno prima, perché, te l'ho detto prima, me lo porto a casa anche quando sono libero, a volte lo consegno anche dopo. Quindi è un lavoro mastrodontico, cioè di cose allucinanti che l'azienda vuole sapere, per poi far sì che la documentazione che vedo io relativa all'Enel sia conforme alla fattura che manda l'Enel. Molte volte ci sono dei kilowatt in più, molte volte ci sono dei kilowatt in meno, pochissima differenza, non mi hanno mai rotto le balle, però devi stare attento, Gianni, è un lavoro molto ma molto delicato, ma soprattutto con grandi rotture di scatole. Di nuovo telefono, ti capisco, a volte anche io mi danno delle incombenze tipo giornaliere, roba del genere da fare, da affrontare, e a volte ci perdo la testa anche io, ricordo che sono dei momenti che tutto devo resettare un attimino e fermarmi e poi ricontrollare, perché poi alla fine non ci capisci che sono un capo, tutto c'è, vai in più, vai in video, la certezza è così, non ce la fai più a continuare a fare queste cose. Senza, ma non ti posso dire tutto quello che c'è da fare, capito? Perché sono anche misuratore di portata, io ho anche misuratore di portata, quindi devo relazionare anche misuratore di portata, quanti metri cubi ora sono entrati nell'impianto, quanti metri cubi giornalieri, cioè non è una cosa da giocare, non è una cosa da giocare, perché deve essere tutto scritto a fine mese. Abano vuole tutta la documentazione impianto per impianto, io quello devo fare e quello devo fare. non venuto a volte mi lamento, mi incazzo, ma se stavo facendo quello non te lo posso fare adesso, ma uno mi serve adesso perché il ragioniere Tizio me l'ha chiesto, l'ingegnere vuole, come mai l'impianto di il mese scorso sono entrati, c'è qualche problema, c'è qualche intasamento di condotta, se non c'ho, allora devo controllarmi, devo fare ispezione di condotta. Gianni, Lugabo non ve l'avete più, capito? Cioè, quando ero più ragazzo ero anche più veloce, più, adesso sono molto più lento, non agio più gana, quindi è quello che mi ha portato a mollare un po' prima, capito? Però a quanto pare ci sono grosse difficoltà e quindi adesso andiamo a sentire quali sono le loro difficoltà. Vabbè. Va bene, dai, io vado a portare il cane, Franco, a te il microfono, se ci siete ci sentiamo dopo molto volentieri, ok? Capo, anche io adesso scappo, mi faccio una bella doccia e poi sicuramente andremo a cenare, dai. Vediamo un po' se voglio dopo accendo, se ci siete, se no direttamente vi sarete salutati tutti. Salutatemi anche quando rientra Giulio, se dovete rientrare, riprendi già. Sì, a Franco. Sai che per la prossima settimana stiamo organizzando a fare qualcosa, però questa volta la faremo di notte, dove c'è musica. Dove volete, dai, se posso io mi aggiungo. Sì, a Franco. E beh, come è stata quella serata degli anni 80? Sai che ci dovevo scendere anche io. Poi un po' di morturi, quello doveva fare una cosa, l'altro io sono posato, mia moglie mi rompe le palle, questo e quell'altro. Tutti i morturi, per scendere giù non ci siamo andati, abbiamo fatto male perché un'amica mi ha telefonato e mi ha detto già, e io buscavo un po' di gente e andiamo anche noi. Guarda, io mi sono divertito un sacco. Compagnia giusta, gente un bel, anche troppa forse. Io ci sono dovuto, infatti ci ho pensato, ho toccato là, magari trovavo anche a Franco, perché mi hanno telefonato, ho detto dai, io busco un po' di gente da una parte, te la buschi dall'altra. Così abbiamo fatto il telefonato, ui, mamma mia, mia delusione, uno è impegnato, l'altro questo, l'altro l'altro, ci ha mangiato a cena. Insomma, non è andata bene una a me, l'altra amica mia mi ha detto va, e ho trovato solo una amica e mi ha detto che però poi aveva gente a cena, quindi mi ha telefonato, mi ha detto che non poteva venire, quindi mi ha detto va, ma per scendere in due cosa ci andiamo a fare? Non potevamo anche scendere in due, avevo fatto male a non andare. Mi devo salutare, devo uscire, dai. Quando telefonato devo uscire, devo andare da un parente. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Franco, se ci sei ancora. Saluto a tutti e tre, dai, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani. Riprendi pure Claudio, credo. Io devo uscire subito, dai. Riprendi qua, ciao. K, sì, Claudio si è allontanato. Ciao Giulio, sempre un piacere, lo sai. Riprendi già. Sì, dai, ci sentiamo. Il piacere è anche nostro, dai, di aver fatto una bella chiacchierata, tranquilla e serena. Avanti, Franco, di nuovo. Sì, ti dicevo, guarda che dovrebbe essere una, credo il 23 dicembre, sempre a Ruscello. Sempre di quel genere? Sì, sì, sempre a quella festa degli antichi. Stasera io c'avevo proprio quello lì, c'avevo il karaoke anni 80 e stavo cantando, poi adesso ha passato la porta e così almeno la gente mi sente entra. Scusa però un attimo, Gianni, ti saluta Antonello, ciao, ci sentiamo, scusa, mi ero dimenticato, la poc'anzi, della prima telefonata, ciao. Grazie, grazie, altrettanto, salutavo anche tu. Senz'altro, ciao, ciao Gianni, alle prossime, ciao, ciao fra di nuovo, scusate. Ehi, ehi, no, lo porta mia figlia al cane, ho già. Ah, vabbè, allora, da posto, che sta facendo alle 8, ci scende. L'ho portato alle 2 quando se l'ho levata, l'ho portato alle 2 e sono salito verso le 4 meno un quarto, quindi già ha girato abbastanza. Già l'ho fatto di nuovo, non è che non l'ho fatto, ma verso le 8. No, io mi stavo preparando e mia figlia, ma statene lì che già l'ho portato io. Sono una giugana, l'ho fatto stamattina io. Vabbè. Gappa. Vabbè, quella roba. cioccolato sta a posto già, sì. Sì, sta a posto, sta a posto di inutile. Dobbiamo chiedere la riunione. Ma è quella lì, quella che ti ho mandato io? Ma non lo so, non me lo ricordo bene. Non mi sono informato, dico la verità, però a me sembra che sia quella. Comunque sono sempre di quelli veterinari. Sì, vabbè. Se vuoi per la situazione, poi se hai bisogno di qualche informazione, dimmelo. Ok, va bene. Gianni, quindi chi c'è al telefono? Giulio? No, no, Giulio è andato via. È dovuto andare da un parente. Capito? Stavo dicendo, che mangime hai preso? Che cosa l'hai preso? Al pesce? No. Questo è carne mista, coniglio, pollo, selvaggina. Selvaggina, poi c'è carote, un po' di verdure in mezzo, ma guarda, da Dio questo, sono arrivato finalmente, perché Filippo mangia bene, ma proprio le piace un bel, sta andando di corpo benissimo, anche 2-3 volte al giorno, proprio bene, fatta analizzare anche le feci dal veterinario, sono qua, perfette. Perfetto, ne ho provato di tutte, ma queste sono una canonata. Ha preso quasi 3 kg il cane, mangiando solo questa come oggi, a pranzo ha mangiato petto di pollo, un bel pezzo di petto di pollo, ha tutto a pezzettini, però non lo sazia, non stava cercando ancora da mangiare, non lo sazia. Infatti gli ho messo un pochino, mi sono arrivate poco fa, gli ho messe, se li ha mangiati proprio in fretta, con gusto, ho bevuto un bel po' di acqua, perché beve sempre, sta bevendo bene, anche prima non mi beveva neanche, e niente, adesso lo porta la mia figlia, no, sono le, aspetta che te lo dico, queste sono della Farmina, e sono le dog farm adulti. Lo fanno loro, è come cash. sa che siamo in Gimi, non li conosci, quelli di cose, dove sono? Di Tiesi, Tiesi non c'è il magificio, Mangimi fa, capito? E c'è anche a Coso, qua a Sassari, c'è anche a Sassari, non so dove dare, me l'ha spiegato, ma non so dove, non so se è nella zona industriale questa che c'è qui o se boh, qualche altra zona industriale, non so se è la zona industriale San Marco, non so. Andando al Ghero, non lo so, comunque mi ha spiegato, non ci ho capito, non c'è, no, fanno loro e fanno anche esportazione già, la famiglia è una cosa, un'azienda abbastanza conosciuta, fanno loro e va bene, poi me lo portano a casa qui, io chiamo, ho chiamato alle 3, ho detto va bene, alle 7 sono da lì, e alle 7 erano qua. Ma che volevo dire, io quel primo che ho preso era un bel farinoso, l'ho dato a Liliana per portare i cani dopo la morte, i cani che ci sono nella villa dopo la morte. E praticamente si erano sfranati, sia i cani che i gatti se lo mangiavano, perché erano accesi piccolini piccolini, però era un bel farinoso e oleoso che maneva. E non mi ispirava piccola verità. No, quello l'ho eliminato perché mi stava facendo il cane stitico già, capito? Mi stava facendo il cane stitico. E allora siamo passati a questo che me l'ha detto lui stesso, perché ho detto guarda che quello che mi stai portando, il cane mi sta diventando stitico, non va bene. Mi ha detto ma li mangia con gusto? Sì, però non sta andando bene di corpo, ok? Una volta solo al giorno, poca roba, eccetera. È un cane adulto il mio, quindi non è che deve fare... Ma ha detto, ascolta, ti faccio provare le nuove. E mi ha portato un sacchetto a 5 kg in omaggio di questo che sto usando. Ho visto che il cane stava migliorando tantissimo, le piacevano moltissimo, più di quelle là, andava anche bene di corpo, tutto, eccetera. L'ha detto, ascolta, portamele, sì, ha migliorato tanto, le piacciono, portami il sacco grande da 20 kg, ed è già il terzo sacco che compro, capito? Portato a casa 38 euro, 20 kg. Io 18, 55 kg. Però vabbè, sono una marca prestigiosa, è quello che vuol dire. Sì, già, due volte, vedi. Ma il corpo due volte, il cane, no, cioè, oggi provate tutti, ce l'ho prima di te il cane, le abbiamo provate tutte, stavo ingrassando lì alla casa degli animali, in via Luca degli Abruzzi, le ho provate tutte, forza 10 che sono omicidiali, portano una barca di soldi, le trainer, gli altri, le royal canin, le ho provate tutte, dalla vasetta, però Filippo non... Queste, ti dico, queste, a lui le piacciono da morire, il cane sta bene, bello lucido, ha ingrassato tantissimo, quindi si è rientrato l'aria, ha fatto qua due volte l'ha fatta, la fa una volta la mattina e poi la fa due volte la sera, è allucinante, sta andando benissimo il cane. E vuol dire che mangia molto bene. L'equilibrio giusto per l'alimentazione, dai. Poi dimenticavo, fai gli auguri a Ilaria da parte nostra, un abbraccio a tutti noi. E poi adesso vi scappo e vi faccio una doccia, come dicevo prima, poc'anzi. Poi se ci siete riprendo, dai, riprendi clap. Dai, auguri a Ilaria. Ecco, io ho capito. Cla. Cosa? Dico, fai gli auguri a Ilaria, che è il compleanno, mi hai detto. Eh sì, ho già fatto 30 anni, Ilaria. Auguri da parte nostra, un abbraccio, dai. E via. Come mai non lo sapeva, Anna? Io lo sapeva. No, si è mettigliata. Ah, boh, non lo so, dopo te lo chiedo. Sta contando Ilaria. Una signora. Ma signora, non li può vedere a quelli? Non li può vedere. Non li può vedere. lui se ne è accorto, lontano. Se ne è alzato, gli ha dato sopra, gli ha detto aiuto. Dai, vi scappo un attimo, vi saluto per adesso, dai, riprendi qua. Ciao Fra. Ciao già. Ciao Fra. Cos'è che ha fatto il soldato addosso? Se uno ha scritto l'altro giorno vicino a casa nel cancello, se becco che fa fare la cassa al cane, non fate al mio cancello gliela faccio mangiare a brutto testa di... Come cazzata lo fa il genere? Beh, ho scoperto che questa roba che lo fa cagare, gliela faccio al cancello, lui odora, lui porta la famiglia. E sto facendo le risate lì con la bimba. Che praticamente è vicino a casa mia, mio popolo, hanno messo in un cancello una scritta, se ti becco io facendo cagare il cane davanti al mio cancello te la faccio mangiare. Brutto testa di punti di punti. E poi dice che l'hanno beccata una signora che passa con carne di mattina, non mi fa fare la carta con la lacca. No, ma Filippo se si accorge che tu lo temi te lo fa apposta. Te lo fai apposta già. Ma che dite? No, c'è la finestra chiusa, aiuto. Ma qua giù, perché l'aria quando esce dal portone? Lo molla il cane. Se li ha visti da lontano a questi che stavano parcheggiando. Mi è andato di gorsa, aiuto. A voi. Perché lo teme? Filippo se ne accorge che lo teme, capito? Ma cosa sono anziano? Avrà 30 anni, c'è quanto è mia figlia, c'è una bambina piccola, il marito un babbagione, alto 2 metri lì, la bimba, mamma ne esce dal guru, dove la bimba, ma dove c'è la bimba? Allora, ma quando mai la bimba cosa? Vamo a cercare la bimba, poi va per giocare, però se lo temi, allora ti abbaia. No, ma poi per dire, con i bambini. Davvero, anche bambini piccoli, va vicino alla carrozzina, infatti ho paura che magari salti e vada sopra, capito? Non tengo per quello, però stravello. Da te bene quando ci va molta gente insieme a carezzarlo, allora si gira le scatole, io ormai lo conosco, quando vedo molta io dico no, non mi avvicinate a tutti perché il cane si gira. Che lo tocca uno va bene, tocca uno va bene e poi comincia già e mi salta tutto. No, Filippo, è molto tranquillo e sereno, non accetta molte coccole, molte carezze a chi non conosce, no? Infatti lo tengo sempre a guinzaglio, perché l'aria quando esce da qua lo sguinzaglia nel nostro giardino, è capitato, capita sempre questa coppia di guasti perché sono due handicappati e quindi lui è due anda. A rompere le scale, no Filippo, per i bambini la stessa cosa, infatti se quando ci vediamo in Italia voglio vedere cosa ci mi sono fatto, venite qua, avvicinatevi anche con la bambina, non fa assolutamente niente, e che vedere chi tu mutighiri mano, chissà cosa pensano, capito? Non è un cagnolino e quindi si spaventano, ma è un cane molto tranquillo. Sono convinti, il cane con la musica di diventa ancora più cattivo, il cane mio e socievo è con tutti, quindi, e soprattutto con i bambini. Però si è accorto che questi temono e allora lui le va sopra, capito? Mamma, quando mai non ti fa male? Nulla, non si girava, poverino, e se mi giro l'ammazzo. E invece alla fine mi dicevo che andato, che le stava rompendo le scatole, lo vedevo che lo stavano, capito, infastidendo. Se lo fa per un cane grande a girarsi così, allora è diverso, allora è diverso. Ma con le persone, lui ti abbaia, ti vuole andare venire vicino, ma non ti fa niente. Siccome ci sono persone deficienti che lo temono, come te dita cretina, metti lì la museruola, e la gli ha detto, la museruola te la metti tu. Li mettessi balare quasi di tu a dirti l'aria. E lei dice, non mi cazzo padre, e quando lo dice a me, per me mi vede spesso, io manco la gaggo, una buongiorno e una buonasera, poi per il passo avanti, se mi ferma e mi dice qualcosa, gli dico, ti ha risposto bene, perché come vedi questo cane non c'ha muso, museruola non ce n'è, poi invece di temerlo, tu e tuo marito, che mi sembrate due deficienti, due persone grandi, avvicinatevi al cane, che ce l'ho 3 anni qua io, lo vedete tutti i giorni e continuate a temerlo. Nel mio tratto non c'è nessuno che lo teme, nessuno, nessuno, lo sanno tutti come si chiama e tutti lo vogliono bene, si avvicinano, no, chi che non dimini, aiuto, aiuto, manco pagare intesa, gatto. A me mi scappa la risa. La museruola vuole un mio, è pericoloso, gatto. E allora io ce l'ho, metto qua. Oh, un beautiful mio, Sì. Se la metti la stare in risa. Ehi. Noi, se ce la facevamo più. Da poi non mi vedevo, la vedevo, la muovi. Ma chi ha piangio? Un beautiful. Perché dai, massimo, cesso. Allucinare, intanto, ma l'ho sentito l'altro giorno cosa ha detto il telegiornale, cioè. No. E tu sei strano, ma con Donat lì. No, non è cattivo, io mi intendo male, gioco una vita e sono influenzato, mamma mia, venimi lì. Quel Monteri era ammazzato il 26 anni. Ed è stato uno che un anno e 6 mesi c'era sto cane. Un anno e 6 mesi, ce l'aveva per addestrarlo. La tribaldo si deve essere girato, mossicato al collo, alle braccia, alle gambe, mazzato la 26 anni sto ragazzo. L'ho sentito prima di giornale, sì. L'ha parlato un amico la destrale, non lo so amico lo stesso gli l'ha dato per la destrale. No. Non si danno così, me l'ho detto Mario, mi ha detto ma sta scherzando, sì. No. L'ho detto tu come ho fatto io, perché tu sei il padrone. Il padrone non si sarebbe girato. Lui si è visto con questo, capito? Si è già pensato Lugani. Ammazzato. Purtroppo ci sono, come sono le persone, ci sono anche i cani, così c'è poco da fare. Non sono tutti, però ci sono quelli che sono ceruci, che sono... Ma non dipende anche dall'educato anche dal padrone, tante volte. Il padrone con certi cani deve avere il polso. Se uno non c'ha il posto, certi cani non dobbiamo prendere. Questi cani pericolosi, pinti, così. Non ho sentito l'ultima parte già, perché si è sparito di radio. Cani, che bisogna avere forza educata. Ma certo che sì, è come quando educhi i tuoi figli, se hai polso ne hai risultati validi, perché ne escono educati e rispettosi anche verso gli altri. Se non hai polso che li abbandoni, diventano dossici, maleducati, ladri, di tutto. Sì, ma con certi cani bisogna avere un carattere di provincia, capito quello che ti voglio dire. Non devi essere buliccio. No, non sono mai stato io col mio, già da piccolino. Lui è bravissimo il mio, l'unica cosa che ha è con i cani grandi, ma quello è un idolo che ci hanno tutti. Però le persone è molto tranquillo. Solo se si accorge che tu lo dimmi, allora provate il bigio, provate, capito? Vabbè, comunque, poco mi la fatti attorare, ma gli ammorsicani nulla, papà, era fermo lì, fermo, e questa era voce, aiuto. Era vicino, si è avvicinato e questa si è messa a voce, non ha neanche abbaiato, nulla. C'è persone che hanno la fobia dei cani, c'è mio cognato costretto che prendo il premio coniato, perché chiuderlo nella camera mi dispiace. No, io non chiudo assolutamente niente, nulla, chi viene a casa il cane è così, se lo vuoi è così, se no niente. Quando viene l'amministratore lo guarda, vabbè, fa pure sempre giambato, mi sempre vedo ticchettato, no, non ne frega niente, non ne frega niente. Come c'è cioè, il campanello e parte alla porta, come apro sopra, sopra, i catti sporchi, lascialo sto, c'è la lavatrice, lascialo sto, tutto l'umiglia, lo dia, quando ce n'andrà è un montone di garraggio. Lo sgombiglia, vedi che va la porta, ci sentiamo, via, un po' cagata, ma devo andare, ci vado, una mezz'oretta e qui lo porto a casa, ci sentiamo, dai, a domani, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Controllati bene quella roba che ti ho mandato e fammi sapere, dai. Ok, io mi allontano un attimo, vado in cucina, dai. Se ci siete a dopo. Ciao, Natali, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Hola, hola. Attento 10, c'è qualcuno su 10. Chi sei? Ti ascolto bassissimo, Santiago 7, però radio non riesco a capire chi sei, se vuoi ripetere chi sei non ho capito. No, non riesco a tirarti fuori, vedo il segnale, sei in mezzo al QRM, puoi fare qualcosa per migliorare o non lo so. No, ti sento parlare, però sinceramente no, adesso metto un attenuatore di un filtro, lo sto mettendo, vediamo un po' se ti tiro fuori. Non ho capito, se vuoi ripetere chi sei. Da Itiri, così adesso, però ti sento molto basso, come mai sei così basso se sei da Itiri? No, perché il segnale non è basso, Santiago 7. Adesso è anche di più, eri quasi 8 adesso, però la radio è proprio bassissima, non è un microfono un po' più performante, diciamo, un po' più potente. E purtroppo oggi è una giornata un po' critica, cioè il QRM è quasi a 7, tu sei appena più su di 7, però purtroppo le situazioni non sono un granché. Io non sono in una buona posizione, io ti lo ascoltavo sempre bene perché c'era Gianni di lì, Gianni Giaguaro, lo ascoltavo perfettamente, Santiago 9. Io ho capito solo Mantova, però non ho sentito quello che stai dicendo, mi dispiace. Scusa il telefono, un attimino, scusami.